FM. Quanto mi è mancato il test attitudinale, fortuna che a pane, burro e rock and roll lo fanno ancora. La domanda di quest'oggi riguardava Marilyn Manson, che già in tenera età era una testa calda. Quale delle tre ipotesi proposte era vera, ovvero il tentativo di farsi espellere dalla scuola cristiana nella quale da bambino fu educato? Ci dia le risposte. Ma certo, una piccola premessa: fa bene DJ Ariele a ricordare il Sanctorum della trasmissione Pane, Burro e Rock and Roll, il test attitudinale che, come lei ha detto giustamente, chissà perché poi le do del lei, perché fa bene, del te potrei darle. Risata obbligatoria. Risposte, ci dica qual era giusta, non tergiversi. Risposta obbligatoria. La prima era la possibilità che Marilyn Manson si fosse messo a spacciare dolci. Sì. È vero o sbagliato? Se così avete risposto, sì, ci avete azzeccato! 2 punti per la vostra patente da veri rocker. Era una scuola con regole ovviamente rigide, erano proibiti i dolci, però attenzione, perché la redazione ci segnala che oltre a spacciare, un'altra delle cose che Brian, Marilyn Manson, era solito fare era spacciare cassettine audio di musica con Alice Cooper, cose strane, Black Sabbath. Dopodiché, visto che la scuola non aveva i lucchetti dell'armadietto, rirubava le cassette che aveva venduto e le rivendeva di nuovo. Bella idea. Beh, certo, un guadagno del 1000 per 1000. Nonostante pratica. Questo, non riuscì a farsi cacciare dalla scuola nella quale fu educato. Esatto, l'importante è provarci, comunque i frutti si sono visti. Questo implica il fatto che non si arrampicò mai sul tetto della chiesa della scuola gridando "sono un dio dorato", quello deve averlo fatto qualcun altro, e non si presentò mai per una settimana intera vestito da donna. Su questo non ci giurerei, su quest'ultimo. Però, insomma, stringendo, la risposta esatta era la prima. Chi ha risposto in questo modo, chi ha scelto la prima opzione, si può definire portatore sano di geni rocker. Thank you. giorno alla mattina ascolta Rock FM, perché fa bene, perché conviene. Perché pane, burro e rock and roll è la colazione che crea assuefazione. I Pink Floyd, Time! Home again. Tutti insieme, amici. I like to be here when I can. When I come home, old and tired. It's good to warm my bones beside the fire. Traco, traco, traco, traco. Far away across the field, tolling on the iron bell. Siamo tornati qui a Pane, Burro, Rock and Roll, 20 minuti alle 9, quando poi cederemo il passo al buon Marco Garavelli. E sarà un giorno perfetto. Sapete perché? Perché lo abbiamo cominciato insieme. Ah, la tenerezza, il miele che cola dagli amplificatori. Tanti messaggi che abbiamo ricevuto quest'oggi al 335 100 77 77. Però saluto in maniera particolare Super Pig, che sentenzia: finalmente sono andato a stare in casa mia, anzi per altri 20 anni è della banca. Però insomma la notizia sembrava positiva. Super Pig che sentenzia anche: si accettano offerte. E volendo essere solidali con il radioascoltatore, potrete inviare 5 euro in busta chiusa a via Locatelli 1 20 124 Milano. Come dite? No, poi glieli giro io, state tranquilli. Ciao fratelli, scrive Ivan. Questo è un altro dei messaggi particolari, mi siete mancati tanto. Il 19 sono diventato papà di Elia, un vero rocker. Fatemi gli auguri. Frick sei unico, gli auguri li facciamo con Mr. Trombetta qui a Pane, Burro, Rock and Roll. Frick sei unico, grande, come puoi dirlo, inimitabile. Ariele, sei lo speaker numero uno della Radio Rock Europea, grazie. Grazie, tenero. Hai ragione. 335 100 77 77 è l'ultima tranche di Pane, Burro e Rock and Roll. La tua colazione rock. Continua a ballare sulle note del boss Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Oh mamma, siamo tornati. I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. Radio's on and I'm moving around the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I'm just living in a dump like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know. I'm just about starting tonight. I'm dying for some action. Dancing in the Dark, the Boss. Stavo dicendo The Bruce Springsteen, sarebbe suonato male. 8:45 minuti primi. Bentornati in coda in tangenziale. Oh, che bello! Fortuna che c'è Rock FM che vi tiene compagnia. Più che altro, Boss, adesso diciamocelo. Dancing in the Dark, sto par di ciuffoli. Il sole sta venendo su, che facciamo? Balliamo al buio. Tra l'altro, perdonami, ma se butto un occhio in là, intravedo una sorta di luce. Come si vedeva? La vedete voi? The band! The band! È certo che la vedo la luce, fratello! The band! Una vecchia abitudine che avevamo nella scorsa stagione. Yes! E se anche voi vedete quella luce, è arrivato il momento di fare gli scemi, soprattutto voi in coda in tangenziale, ragazzi. Se non fate finta di suonare insieme a noi, siete persi, perché vi annoiate. Quindi imbracciate il vostro strumento virtuale, potete scegliere in una classica formazione rock tra basso, doppia chitarra, batteria e basta, mi sembra, perché andiamo a emulare, andiamo a fare l'air band sulle note, wow, di Jumping Jack Flash. Ah, io faccio la chitarra, non ce n'è, ragazzi, io faccio Keith Richard tutta la vita. The Rolling Stone, e voi che strumento scegliete? Si può fare anche Mick Jagger. One, two. Traku, traku. One, two. Yes, yes, yes. La buona musica, il pilastro delle nostre due ore mattutine, ma soprattutto la possibilità di farvi svoltare la giornata. Anche quest'oggi è obiettivo primigenio di Pane, Burro e Rock and Roll. Dico bene, maestro? Posi la sua Fender Stratocaster immaginaria. Senta che effetti, veramente incredibile. E ci butti della carne sul fuoco, se le va. Di cosa ci occupiamo? Amici ed amiche, ascoltatori e ascoltatrici. E radioascoltatrici. Sì. In tanti, sempre di più. Sempre di più. Noi vogliamo alzare l'indice d'ascolto, il gradimento, lo share. Come? Come? Se non con la positività del nostro messaggio. Dove andiamo a recuperarla quest'oggi, positività? Alle spalle di chi sta peggio, da veri bastardi. Beh, il meccanismo effettivamente potrebbe funzionare. Lei vuol farmi credere che raccontando cose brutte accadute ad altri potrebbero svoltare la giornata a te. Ma ci si rincuora, dai. Infatti si prende le distanze e dice: vabbè, è accaduto a lui, è un essere umano, gli do la mia solidarietà, però non è capitato a me, dunque io godo. Nello specifico quest'oggi che situazione andremo ad analizzare? Dove andiamo di bello? Ah, guardi, oggi leggo un dispaccio. Un'ansa. Leggo un'ansa della redazione. Un giovane estone. Dell'Estonia. Dov'è l'Estonia? Non lo so e non ci interessa minimamente, infatti, al fine della rubrica. Infatti, vogliamo essere e restare geograficamente ignoranti. Quello che ci interessa è che è stato fermato dalla polizia mentre guidava un'automobile in stato di completa ubriachezza. Ai, non si fa. Non si fa e non si deve assolutamente fare. Ma la cosa sfiziosa, la cosa particolare, la cosa interessante è gli agenti della polizia estona o estona. Può essere. L'hanno fatto scendere da routine. Da routine e hanno constatato con l'apposito etilometro che l'uomo era davvero in uno stato avanzatissimo di ubriachezza. E fin qui voi direte: vabbè, dove vuole andare a parare il sì, buon certo, freak? Certo. Ecco, fin qui tutto normale, voi direte. Peccato che gli agenti della polizia estona durante il controllo si sono accorti che l'uomo, oltre a guidare completamente ubriaco, era anche cieco, non vedente. Cosa che può ingravare particolarmente la situazione del giovane estone o estone. Sì, cosa che può complicare notevolmente la situazione. E guidare sbronzi è pericoloso, guidare ciechi lo è forse di più. Molto di più. E voi ci chiederete, e adesso? Che accade? Qual è l'evoluzione della situazione? Adesso è stato arrestato e condannato a 30 giorni, 30 di carcere, che se vogliamo poi non sono forse tantissime ad ogni modo. Sfrutterei al volo la segnalazione del maestro Freccantoni per due segnalazioni. Sì. A. Se siete ciechi e sbronzi, non guidate. B. A voi non è mai capitato. Buona giornata. Esatto. L'ho letta bene? Benissimo. Iniziate al meglio la vostra giornata. Watching the clock, it's 4 o'clock, it's got to stop. Tell him, take no more. She practices her speech as he opens the door. She rolls over, pretends to sleep as he looks her over. She lies and says she's in love with him. Can't find a better man. She dreams in color, she dreams in red. Can't find a better man. Can't find a better man. Can't find a better man. Oh. talking to herself. There's no one else who needs to know. She tells herself. Trovare un uomo migliore, sentenziano i Pearl Jam. Mai parole furono più azzeccate. Siamo tornati. Si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. E dalle 7 alle 9 del mattino vi tiene compagnia sulle frequenze di Rock FM. Dicevo, dalle 7 alle 9 del mattino. Sono le 9 meno 2 minuti dalla precisissima meridiana di Rock FM. E quindi è tempo per noi di lanciare la prima sigla di chiusura della nuova stagione di Pane, Burro e Rock and Roll. E via! Su aria di Ian Dury, da Sex, Drugs and Rock and Roll, ci trasformiamo in Pane, Burro e Rock and Roll. È semplice. Pane, burro e rock and roll. Interpreto io, come avrete intuito. La tua colazione rock. Uè Fabione ci mette l'armonica. Pane, burro e rock and roll. E Ian Dury invece suona nella versione originale. È finita, amici. Uè! Se cerchi una radio, ci fa roccheggiare. Beh, l'hai trovata. Ecco, l'hai trovata. Eh sì. No, non la cambiare. Ah, no. Pensa che fortuna. Tracu. Averci incontrato. Tracu, tracu. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Vediamo se Spadino si ricorda il tasto giusto. Garavelli, ci sei? Presente. Uè, Garavelli! Bentornato. Grazie, grazie. Bentornato a te più che altro. Ti siamo mancati settimana scorsa, mi hanno detto. Esatto. Che eri tutto solo soletto. Però vorrei precisare, non credete a tutto quello che dice Ariel. Non ho preso a calci il PC questo. Ma Garavelli, ma se quando sono arrivato ci eri seduto sopra e coi talloni sdraiato, cioè, gli davi dentro. Non l'ho preso a calci. Vabbè. Va bene, era finzione radiofonica. Il fatto che però il computer madre di Rock FM è come Valentino Rossi ieri ha grippato il motore, siamo in onda col muletto. Bravo, Garavelli. Sta arrivando. Bravo, comunque il meccanico. Mi hai tolto le parole di bocca. Esatto, sta arrivando il meccanico. A piedi sta arrivando il meccanico. Sì. Senti, fammi fare un ultimissimo saluto a Maya, perché sai, cerco di estrarre i più significativi. Lei si è licenziata da Vera Rocker, mi sembrava giusto lanciare questo saluto. Oggi inizia un nuovo lavoro e ha bisogno di una bella strombazzata. E caro Garavelli e cari amici, sapete che noi quando le ragazze chiedono strombazzate non ci tiriamo mai indietro. Grazie, sono una pazza che ride da sola sul tram e farà scema e fa Keith Richard. Brava, brava Maya. In bocca al lupo per il tuo nuovo lavoro. Mentre a Garavelli lo lascio nel suo vecchio lavoro, esatto, quello di leone della radiofonia. E basta, ci si risente domani. Se tutto funziona. Se tutto funziona. Altrimenti, se il meccanico altrimenti sistema. Ma che ce frega, ma che ci importa, noi siamo sempre qui. Ah no, riascoltate la replica su RadioRockFM.com. Giusto, dico bene. Anche quello, dici bene. Anche Arden Devi. Anche quello. Se vi va un po' di metallo. Anche le interviste di Edo. Anche le interviste basta. Di Edo. Basta. Ciao.